questa frase che poi... Assolutamente sì. L'Italia peggiore è quella che si disinteressa della concretezza dei problemi, della realtà dei problemi. Ho fatto più io per i cosiddetti precari della pubblica amministrazione che tutti i miei predecessori. E andandomene c'erano già gli striscioni pronti di fronte a me con varie insulti, frasi o altro. Era un agguato mediatico. Un agguato mediatico costruito per avere immagine, avere voce. Erano in 4 o 5, non ero in più rispetto a un centinaio di presenti. Era un agguato anche un po' violento, nel senso che poi, me l'ho detto, ci sono stati spintoni, cose, eccetera. Qualcuno voleva buttarsi sotto la mia macchina, cioè stavano cercando l'incidente, la rissa e così via, cosa che non è avvenuta perché abbiamo mantenuto tranquillità e nervi e calmi e anche sorriso, per cui alla fine io ho ringraziato, ho salutato, ho detto auguri e così via. Il problema però non è questo, il problema è: la rete può essere usata così? La rete può essere usata come un manganello